Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Noi siamo pronti per partire, per sentire i titoli del nostro sommario con Pietro Alla Corte in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Quindi possiamo partire. Se lo stomaco fa i capricci, controlla la postura per stare meglio. Frutta e verdura a prova di igiene. Bruciore, acidità, gonfiore, nausea, senso di pesantezza. Ci siamo, il nostro stomaco ha ripreso a brontolare. Io direi che è necessario dedicargli un po' di attenzione, anche perché questa per lui è una stagione un po' difficile, come l'autunno d'altronde. Allora, se lo stomaco è il vostro punto debole, questa, cari amici, è la puntata giusta per fare pace con lui. Ci sono cose che gli piacciono e cose che gli danno fastidio, lo irritano, no? Proprio come succede a noi. Allora, per una buona convivenza, meglio conoscerle. Ed è quello che faremo oggi insieme al nostro ospite, il professor Maurizio Koch. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Direttore dell'unità complessa di gastroenterologia all'azienda San Filippo Neri di Roma. Professor Koch, oggi parlando di stomaco avremo anche l'occasione di parlare di Helicobacter pylori, un batterio con cui conviviamo spesso a nostra insaputa e per il quale i patologi Marshall e Warren hanno ricevuto il Nobel per la medicina. Ma prima di capire se il dolore che avvertiamo dipende da lui, allora cerchiamo di dare qualche indicazione generale per non fare, come si dice, di ogni erba un fascio. Allora, se lei è d'accordo, inizierei dalla localizzazione. Si può definire mal di stomaco il dolore che nasce nelle zone addominali al di sopra dell'ombelico. Però, professore, mi rendo conto che delineare la zona in cui si manifesta il problema è solo un primo passo. Occorre avere altre indicazioni. Se lei ci aiuta, noi siamo contenti. Guardi, la cosa importante, lei ne ha già accennata una, la sede esatta del dolore indicata con un dito può essere molto importante per definire il tipo del dolore. Ancora, ci sono fattori scatenanti che lo peggiorano o fattori allevianti che lo migliorano. L'irradiazione si diffonde al retro della scapola, al dorso, o si diffonde nei quadranti anteriori. Ecco, in realtà sono i diversi aspetti, compreso la durata, che possono consentire di definire meglio la causa del mal di stomaco. Le ricordo che c'è un piccolo dettaglio: in termini di nomenclatura si chiama dispepsia, che è disturbo digestivo, che è una categoria sotto cui rientrano tutte le cause di mal di stomaco. Ecco, il termine mal di stomaco è corretto, la dispepsia è il termine un pochino più ufficioso. Ufficioso. E noi diamo il nostro numero verde per invitare i nostri ascoltatori a intervenire all'800 24 00 24, per mandarci messaggi come al solito al 349 238 6666. Professore, fitta, peso, sbarra, senso di vuoto, languore, crampo. Ci sono tanti modi diversi di percepire e anche di descrivere il dolore. Ci danno qualche indicazione? Posso fare una piccola premessa? Tenderei a distinguere un modo di dirci le cose in questa trasmissione come dolore di stomaco, sì, e fastidio di stomaco. Sì. I due aspetti sono leggermente diversi come possibilità di causa. L'uno, il dolore di stomaco, può essere riferito proprio come una sintomatologia dolorosa, riferibile potenzialmente ad un eccesso di secrezione acida. Sì. Mentre il fastidio spesso è un disturbo, appunto non doloroso, collegabile a un disturbo della motilità gastrica. Forse avremo occasione di parlarne dopo. Ecco, queste due classi devono essere quelle su cui riferirci per chiarirci meglio il discorso di quest'oggi, e in queste tenderei a collocare la discussione successiva. Allora, quindi, state pronti: dolore o fastidio? Questo è un po' quello che vi chiediamo di raccontarci per dare modo al professor Koch di darvi indicazioni e consigli. Il nostro numero verde è 800 24 00 24, e i messaggi, sempre per dolore o fastidio di stomaco, 349 238 6666. Una mela al giorno. Fermi, immobili e osservatevi, controlliamo la postura. Siete in piedi o seduti? Più volte i nostri esperti ci hanno detto che il nostro benessere dipende anche dal modo in cui noi stiamo nello spazio. Quindi questa è un'informazione che dobbiamo ricordare. Ci aiuta la dottoressa Daniela Vernazza, coordinatrice dei fisioterapisti del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno dottoressa Vernazza, benvenuta. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, proviamo con il suo aiuto a dare a chi sta seduto, come me in questo momento, che ho le gambe tutte attorcigliate, qualche consiglio di buona postura. Bene, da seduti le gambe non stanno attorcigliate, brava, i piedi devono essere bene appoggiati al pavimento. E la postura... Vedo che anche Pietro alla Corte si sta, ecco ce lo dica bene. Correggiamoci tutti. La schiena deve essere eretta, se abbiamo a disposizione uno schienale, ovviamente cerchiamo l'appoggio dello schienale che deve sostenere la nostra schiena a posizione verticale. Se non approfittiamo dello schienale, comunque la nostra schiena deve essere eretta, le spalle indietro, la testa con lo sguardo in avanti. Io, come ho già avuto occasione di raccontarvi, dico sempre: uno sguardo fiero ci mette già nella condizione di stare eretti. Questo da seduti. Professor Koch, lei immagino sarà seduto. Sto sentendo i consigli della dottoressa Vernazza con estrema attenzione. Io sono seduto, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Fortunatamente lei non ha una telecamera per controllare. Allora, dottoressa Vernazza, c'è chi magari sta ascoltando Essere Benessere in piedi, facendo qualcosa. E allora, a loro che cosa possiamo dire? Anche in posizione stazione eretta è importante avere la schiena allineata alla verticale, quindi non lasciamoci andare come dei sacconi di patate. Esatto, dimentichiamoci i sacchi di patate, invece ricordiamoci lo sguardo fiero, la testa eretta, le spalle indietro e soprattutto la pancia un po' contratta. Diciamo, i nostri nonni ci dicevano pancia in dentro, petto in fuori. Direi che siamo abbastanza vicini alla correttezza, insomma. Se la pancia rimane un pochino contratta, spingendo dentro i visceri, sicuramente abbiamo una buona postura e facciamo anche più bella figura, no? Esatto, anche quello. Perché, dottoressa Vernazza, l'equilibrio giova ai muscoli, alle articolazioni, ma anche ai nostri organi interni, e lo stomaco, di cui ci occupiamo oggi, non sfugge a questa regola. Perché molti mal di stomaco potrebbero essere evitati correggendo posizioni scorrette, per questo lei gentilmente ci ha offerto delle indicazioni, o posizioni viziate. Esatto, quindi se le nostre articolazioni, i nostri muscoli si avvantaggiano di una postura corretta, sappiamo che poi all'interno abbiamo anche dei visceri che anch'essi godono di una buona postura. Insomma, se focalizziamo l'attenzione sullo stomaco, sappiamo tutti che quando abbiamo appena mangiato una posizione appunto tipo sacco di patate, come avevamo ricordato prima, sicuramente non facilita una buona digestione. Quindi anche nel funzionamento normale, anche lontano dai pasti, se la nostra postura è corretta, così come abbiamo indicato prima, sicuramente lo stomaco funziona meglio. Dottoressa, lo stomaco ha un vicino, ha diversi vicini, ma ne ha uno, e se volessimo paragonare il corpo umano ad un condominio, questo vicino, quello a cui mi riferisco io, abiterebbe al piano superiore. Il suo nome è diaframma, e lo citiamo perché, come succede nei condomini, il comportamento di chi ci abita sopra interferisce sul nostro benessere. Anche il diaframma ha a che fare con il benessere del nostro stomaco. Esatto, è corretto. Questo vicino non deve essere un vicino ingombrante e fastidioso, soprattutto non deve essere contratto. Spesso la nostra vita stressante ci porta a delle tensioni muscolari molto spiccate che ci disturbano. Se in questo caso è coinvolto il diaframma, sicuramente il benessere del nostro stomaco è in pericolo. Quindi se noi posizioniamo, vi voglio fare proprio un esempio diretto, grazie. Se noi posizioniamo le nostre mani tra la gabbia toracica e l'addome, possiamo renderci conto se il nostro diaframma è contratto, proprio perché sentiamo se durante la respirazione c'è un movimento fluido normale o se il movimento è interrotto, è solo focalizzato sulla gabbia toracica e non sull'addome. Quindi dobbiamo anche respirare con la pancia. Dobbiamo respirare anche con la pancia. Il respiro deve essere il più fluido possibile e coinvolgere sia la gabbia toracica che la pancia. Se sentiamo una particolare tensione proprio al passaggio tra le costole e l'addome, vuol dire che dobbiamo proprio forzare un po' la mano, diciamo così, magari fare proprio degli esercizi spingendo un pochino in fuori la pancia per qualche volta, per qualche respiro, e poi cercare invece di tornare a una respirazione normale che coinvolge anche l'addome. Quindi respirare bene in modo corretto aiuta anche lo stomaco a stare meglio. Esatto. Professor Koch, lei è d'accordo? Sono perfettamente d'accordo. Sto sentendo con grande interesse questo discorso che state facendo, Nicoletta, perché il punto centrale è che l'attività corretta del diaframma impedisce, forse avremo occasione di parlare in un attimo, il reflusso gastroesofageo, sì, oltre a modulare la motilità dello stomaco. Il reflusso gastroesofageo con la sua pirosi, con la sua bruciori, è uno dei quesiti, dei problemi più grossi che abbiamo oggi. Quindi, insomma, prendiamo due piccioni con una fava, professore, è il caso di dirlo. Intanto ringrazio la dottoressa Vernazza, la saluto. Grazie a voi. Buonissima giornata. Arrivederci. Mentre noi continuiamo naturalmente ad occuparci del nostro stomaco insieme al professor Koch. Pronto soccorso. In linea abbiamo Giulia che ci chiama da Trento. Buongiorno Giulia, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Io volevo chiedere al professor Koch sulla localizzazione del mal di stomaco. Io sì, soffro di mal di stomaco, ho fatto la gastroscopia, ma è stato solo un po' di gastrite, non ho l'Helicobacter pylori. Sì. A me si puntualizza in un punto dietro, sotto la scapola sinistra, e quando mi viene forte forte mi prende anche le spalle, cioè i muscoli tipo i deltoidi, come si chiamano? Sì. Professor Koch, sì, un dolore che arriva fino alle spalle. Ecco, dunque, la domanda è molto corretta, Giulia. Guardi, una delle la cosa più probabile che le abbia è temporanei episodi di reflusso gastroesofageo, cioè l'acido torna verso l'esofago, verso l'alto, ne parlavamo un istante fa, sì, ed ustiona letteralmente, ma temporaneamente, istantaneamente, l'esofago, tanto da dare una contrattura all'esofago che si irradia dorsalmente. Quindi lei probabilmente soffre di una malattia del reflusso che non dà segni di esofagite alla gastroscopia. O in alternativa, Giulia, questa irradiazione dorsale potrebbe nascondere calcoli di un vicino di casa, come diceva prima Nicoletta, che è la colecisti. Quindi le consiglierei anche di effettuare una ecografia per escludere che ci siano colecisti. Dolore dorsale uguale o malattia da reflusso gastroesofageo o litiasi della colecisti. Quindi dalla telefonata di Giulia, cari amici, capite come è importante saper descrivere bene il proprio dolore di stomaco o il fastidio di stomaco a cui accennava il professor Koch. Ma professore, spesso uno dei sintomi almeno più riferiti è il bruciore, che sintomo che porta spesso chi ne soffre a sospettare una gastrite, termine con cui si indica un'infiammazione dello stomaco. Ma qui bisogna mettere un po' i puntini sulle i, perché è un termine, gastrite, che noi, non addetti ai lavori, usiamo con troppa disinvoltura, mentre voi medici, giustamente, fate i dovuti distinguo. Sì, scusi, la cosa è molto importante. Tutte le parole che in medicina finiscono per ite vuol dire infiammazione, e dunque la gastrite correttamente è un'infiammazione dello stomaco, usualmente cronica. Lo stomaco introduce una serie di alimenti, compresi i batteri contenuti negli alimenti, sì, la disinfezione e l'ingresso di sostanze strane tendono ad irritare lo stomaco, e dunque la gastrite cronica è in parte una vera e propria normalità. La gastrite cronica non dà disturbi, Nicoletta, come lei diceva giustamente, questo è un discorso molto importante. Tutti noi l'abbiamo, io ho la gastrite, chiunque venga a fare una gastroscopia nel 60-70% dei casi ha gastrite, non è quella la causa dei disturbi di cui stiamo parlando adesso, e questa è una cosa molto importante. Ce ne sono altri motivi, non so se ne vogliamo parlare adesso. Certo, parliamone adesso, perché ecco, così guarda, andiamo... Su 10 persone che vengono a fare la gastroscopia per il mal di stomaco, 6 hanno gastrite e nessun'altra lesione. 2 possono avere ulcera gastrica, ulcera duodenale o erosioni gastriche o duodenali, e gli altri 2 hanno segnali di infiammazione dell'esofago. Dunque il discorso della malattia da reflusso gastroesofageo di cui ci dicevamo. E dunque lo scenario è sottostà a questa considerazione, che soltanto in 4 pazienti su 10 ci sono delle lesioni organiche importanti, sì, e negli altri 6 non ci sono lesioni organiche importanti, ma che devono essere studiate in qualità di risoluzione del problema. Insomma, se c'è dolore di stomaco, se c'è fastidio di stomaco e gastrite, i farmaci da utilizzare sono leggermente diversi e devono correggere o la secrezione acida troppo aumentata o troppo eccessivamente percepita dallo stomaco, o la motilità gastrica che è alterata. Andiamo a Paolo della provincia di Milano e poi insieme al professor Koch vorrei parlare anche del ruolo della dieta. Ho mal di stomaco perché mangio in modo sregolato, non ho una dieta equilibrata, dei farmaci e anche dello stress, per poi arrivare al nostro batterio, un batterio da Nobel. Paolo dalla provincia di Milano, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno. Eccoci. Bene. Volevo chiedere una domanda, fare una domanda al professore. Sì. Io da qualche anno che al cambio di stagione vengo sempre assalito da dolori di stomaco nella parte anteriore, ma poi c'è un altro problema, che il mio stomaco è perennemente gonfio e anche se ho perso nell'ultimo anno una decina di chili, sì, ma lo stomaco è rimasto gonfio. Premetto che ho fatto una gastroscopia per vedere se c'era qualcosa di particolare, ma l'unica cosa che mi hanno rilevato è un'ernia iatale. E per il resto non hanno trovato niente. Le ha dato poca soddisfazione, insomma, poca Paolo. Soddisfazione. Professor Koch, questa gastroscopia, un esame che è antipatico a tutti, ma due dei nostri ascoltatori l'hanno già eseguito. E su questo bisognerebbe riflettere. Paolo non ha trovato soddisfazione perché dice: ho fatto un esame così noioso e poi mi hanno trovato solo l'ernia iatale. Professore, gonfiore. Ma ecco, Paolo c'ha un disturbo importante. Si ricorda, discutevamo inizialmente tra dolore e fastidio. Lui ha un fastidio, se ho ben capito Paolo, poi mi correggerà, che è essenzialmente anche postprandiale ed è una dilatazione dello stomaco con una sensazione di ripienezza classica di un alterato movimento, motilità dello stomaco. Sì. Allora, i consigli che mi permetterei di darle con una gastroscopia così negativa è di affrontare attività fisica regolarmente. La dottoressa Vernazza ha fatto discorsi molto interessanti, aggiungere anche dell'attività fisica tre volte a settimana di un'ora ciascuna e farmaci appunto che aiutino la motilità intestinale, procinetici. Questo dovrebbe permettere di rallentare notevolmente, almeno temporaneamente, il disturbo. Il vostro stomaco va in fiamme, fate fatica a digerire, avete la sensazione di avere un peso che non vuole andare nessuno e giù, rilassatevi, state tranquilli perché oggi siamo in ottima compagnia. In linea con noi abbiamo il professor Maurizio Koch, direttore dell'unità complessa di gastroenterologia all'azienda San Filippo Neri di Roma. Professore, prima di parlare di Helicobacter, io volevo chiederle che ruolo hanno i farmaci, la dieta e lo stress nel per questo fastidio o dolore allo stomaco. Iniziamo dalla dieta. Molti dicono: mal di stomaco, mi metto in bianco. Mi permetto di sconsigliare vivamente questo discorso. La dieta in bianco non è utile. Ci sono già due ci cose piaceva, importanti. Adesso ci piace ancora di più, professor Koch. No, volevo dirgli però due piccoli appuntini che sono importanti. Per chi soffre di malattia da reflusso, oltre ai consigli della dottoressa Vernazza, moduliamo il diaframma, devono essere sconsigliate cioccolato e menta e superalcolici. Sì. Questi tre insieme sono farmaci che dilatano la giunzione tra esofago e stomaco e facilitano il reflusso. Questo è molto importante. Ci sono altre considerazioni importanti per quanto concernono comunque, per chi soffre di disturbi di stomaco, il quantitativo massimo di alcol da assumere nella giornata. Come sapete si sta limitando sempre di più, ohimè, non usiamo più di due bicchieri di vino al giorno e regolarmente mai superalcolici. Professore, mi scusi, mi scrive Andrea da Bologna. Cibars, gli alimenti integrali, possono aiutare i movimenti procinetici? Gli alimenti integrali sono un'ottima, noi non stiamo parlando di mal di stomaco, sono un'ottima integrazione nell'alimentazione perché le fibre servono per motilizzare, per mettere meglio in movimento l'intestino, per ridurre l'assorbimento del colesterolo ed una serie di considerazioni di questo tipo molto importanti. Rallentano, ma solo temporaneamente, la motilità dello stomaco. Devono essere sempre accompagnate a grandi quantitativi di acqua che consentono l'aumento di volume della fibra stessa. Un'altra domanda che ci arriva da Caterina, da Lucca. Probiotici sì o no per lo stomaco, servono solo per l'intestino? Bella domanda. La domanda è bellissima perché c'è questo grande scenario dalle televisioni, siamo bombardati sui probiotici più o meno correttamente inquadrati. I probiotici sono di grande utilità per la flora dell'intestino, sono molto meno utili per lo stomaco, anzi al contrario è lo stomaco che cerca di bloccarne il transito. Sapete che l'acidità dello stomaco serve per disinfettare il contenuto gastrico prima dell'ingresso nel duodeno e quindi lo stomaco li combatte assiduamente e i probiotici che dobbiamo assumere per l'intestino devono essere garantiti in, come, in grado di superare la barriera gastrica. Certo, perché sennò non arrivano. E non arrivano proprio. Vediamo, prima di parlare di stress e di farmaci, arrivare al nostro protagonista, l'Helicobacter, Anna da Roma. Buongiorno Anna. Sì, buongiorno. Senta, io ho questo problema nella bocca dello stomaco, praticamente. Meno male che c'è, no? Sì, mi si forma una specie di bolla di aria che si ripercuote alla schiena. Sì. Allo stesso punto esatto. E nell'arco delle 24 ore, inizia molto lentamente, ma nell'arco delle 24 ore aumenta il dolore, non riesco neanche a camminare molto bene. Quindi lei praticamente è come se avesse una spada che passa da parte a parte? Sì, una spada. Ecco. Perfetto. Tanto per visualizzare questo dolore, professor Koch. Sì, vorrei sapere da Anna se il disturbo viene dopo i pasti o se è indipendente dai pasti. No, non è in concomitanza con il pasto. Io non ho problemi di stomaco, non ho problemi digestivi. Anarchico, proprio... insomma, eh? Sì, sì. Va bene, sì, allora... la sento pianissimo anche. Allora, professor Koch. Guardi, la situazione è sempre da collegare con un ritardo della motilità dello stomaco, si accumula aria nella cupola gastrica che tende a comprimere gli organi vicini dando irradiazione posteriormente. Io tenderei ad utilizzare anche in questo caso dei procinetici. Attenzione a mangiare molto, a prendere i pasti lentamente, perché con ogni probabilità il disturbo dipende anche da una ingestione di aria durante il pasto. Professore, andiamo ai farmaci. Tante volte il nostro mal di stomaco proprio è causato dall'assunzione di farmaci. Noi spesso tendiamo, no, ad automedicarci e a volte ci scappa un po' la mano, ecco, diciamo così. Senti Nicoletta, questo è un discorso molto importante perché nella selezione dei fattori che possono farci pensare di avere qualche cosa di più di una gastrite banale cronica, ci sono proprio i farmaci. I farmaci che possono interessare lo stomaco sono soprattutto i due tipi. L'aspirina, che molti di noi prendiamo anche a scopo preventivo di alcuni incidenti vascolari, o i farmaci antinfiammatori non steroidei che prendiamo per i dolori articolari. Sì. Entrambi queste due classi di farmaci, l'aspirina e i FANS, i farmaci antinfiammatori, hanno un rischio elevato di indurre lesioni dello stomaco, quindi di entrare in quel 20-40% di pazienti con lesioni. E sono lesioni che potenzialmente sono serie. Chi prende aspirina, chi prende FANS deve sapere che all'1%, 2% di probabilità annua di fare un'ulcera sanguinante. Dunque la cosa sta diventando improvvisamente, mentre chiacchieriamo, più seria. Il mal di stomaco può associarsi anche ad eventi importanti. E questi farmaci devono essere utilizzati solo su prescrizione del medico. Parlo di farmaci assunti continuativamente, Nicoletta, e solo in casi appunto di corretta indicazione. Mi scusi professore, ma se io questi farmaci li assumo a stomaco pieno, riduco il rischio? La domanda è corretta e la risposta è no. Purtroppo no. Se prendiamo l'aspirina dopo mangiato, come ci viene raccomandato, abbiamo la stessa identica probabilità di danno gastrico. Andiamo a Gianni da Roma e poi un ascoltatore mi dice: non avete finito di dire sul mangiare in bianco? Ma noi non siamo mai contenti perché il professor Koch ha detto mangiare in bianco no, ma forse bisogna aggiungere qualcosa. Gianni da Roma, iniziamo a sentire lei. Buongiorno. Senta, informazione. Senti, alcuni anni fa sono stato recidivo da due ulcere tipo gastrite. Sì. No? E ogni tanto spesso mi viene l'acidità del stomaco in base a quello che cosa mangio, prendo il caffè a prima mattina. Cosa potrei evitare per avere questa acidità del stomaco? Io faccio come professione, sto sempre seduto, faccio il camionista, no? Sì. E sto stando sempre seduto come se mangio il cornetto e mi torna su, diciamo. Ma a Roma come si fa a non mangiare il cornetto, no? Gianni, esatto. Insomma uno... Come posso tamponare queste acidità ogni tanto che mi torna? Io tante volte mi mangio le querizie, tipo le pasticchette, no? Sì. Ho sentito che fa come se facesse un protettore per lo stomaco. Allora sentiamo il professor Koch che cosa ci dice. Gianni ci ha dato già delle indicazioni. Professore. Intanto volevo dire a Gianni una cosa importante. Lui ha avuto due ulcere in passato. L'ulcera è una malattia importante che deve essere chiarita nella sua evoluzione. Ha avuto in concomitanza di allora la presenza dell'Helicobacter, ne riparleremo in un istante. Ha fatto una corretta eradicazione dell'Helicobacter questo gentile signore Gianni? Questa è la prima domanda che deve verificare Gianni. Sì. La seconda, in caso della posizione seduta, questa sensazione di acidità dipende di nuovo con ogni probabilità di ritorno di acido verso l'esofago. Ci sono delle sostanze antiacide tipo Malox per intenderci che devono essere assunte temporaneamente come compresse per tamponare questa situazione nel momento in cui avvengano. L'eventuale frequenza come dire, subentrante e la gravità possono far pensare anche a classi di farmaci più importanti. Professore, quindi la dieta e i farmaci, lo stress, questo mi ha fatto venire, proprio vederlo mi fa venire il mal di stomaco, mi ha fatto venire l'ulcera. Tante volte noi spieghiamo il nostro problema di stomaco con causato dallo stress. Che relazione c'è, professore? C'è una grossa relazione. Ognuno di noi sa che sentiamo la cosiddetta stretta di stomaco quando parliamo col collaboratore maleducato o all'incidente stradale, oppure quando facevamo gli esami o avevamo qualche pensiero per la testa. Il punto è che noi dobbiamo pensare, ne abbiamo parlato durante l'altra trasmissione, sì, Nicoletta, cioè che in realtà lo stomaco è un organo molto attivo con una sua peristalsi, motilità dello stomaco accentuata. L'eventuale interazione tra cervello e cervello intestinale, come dicevo l'altra volta, accelera la motilità intestinale e dà dei veri e propri spasmi, insomma il collegamento c'è sicuramente. Allora, professore, Helicobacter, un batterio molto diffuso con cui possiamo convivere a nostra insaputa, che danni può provocare? Dunque, guardi, questi due signori, Marshall e l'altro premio Nobel, Warren, fecero questa bella e importantissima scoperta. Presero questa cultura dopo una serie di ricerche, la mister di batteri, e la bevvero. Fecero una gastroscopia prima e dopo e documentarono una netta quadro di gastrite acuta. Ora, il punto centrale è che questo batterio è stato identificato già da un signore italiano che si chiama Bizzozzero nel corso del secolo precedente, ma è stato identificato come il responsabile dell'ulcera gastrica e dell'ulcera duodenale, punto. Cioè in realtà il batterio è un batterio che deve essere assolutamente eradicato per chi ha appunto ulcera gastrica, ulcera duodenale od erosioni gastriche od erosioni duodenali. In questo caso, ed è questa la grande scoperta, l'eliminazione del batterio riduce a zero il rischio di ritorno di ulcera gastrica o di ulcera duodenale. E in questo senso ne parlavo prima con Gianni. Eccoci, siamo tornati insieme. Abbiamo Marco che ci chiama da Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Sono in linea? È in lineissima. Sì, perfetto, grazie. Senta, allora, ho una domanda al professore. Allora, partiamo. Io a novembre ho fatto una gastroscopia al San Filippo Neri, visto che il professore... Proprio a casa, insomma. Guarda. Hanno diagnosticato una erna iatale e una gastrite cronica. Sì. E Helicobacter pylori. Sì, Helicobacter pylori. Sì, ho fatto le dovute cure antibiotici, poi ho fatto la verifica e è andato negativo. Però adesso, da circa un mese, ho diarrea e forti dolori addominali. Ho fatto una cura con il Flagin antibiotico, adesso l'ho smessa, però i dolori mi hanno continuato. Volevo sapere se era il caso di fare una colonoscopia o qualcos'altro, non lo so. Allora, professor Koch, Marco, a differenza di un altro nostro ascoltatore che diceva beh, ho fatto la gastroscopia ma hanno trovato poco, a Marco devo dire che gli ha dato soddisfazione, no? Ma non tanto perché il San Filippo gli ha fatto venire la diarrea. Ma... Allora... No, cioè, c'è un nuovo evento, volevo dire al gentile ascoltatore, perché non è in collegamento con l'evento precedente del mal disturbo di stomaco del novembre dell'anno scorso, c'è un nuovo evento che deve essere diagnosticato. La diarrea che si prolunghi più di 4 settimane deve essere attentamente rivalutata e non è escluso che debba essere sottoposto a colonoscopia. È opportuno che chieda un appuntamento da un gastroenterologo ospedaliero per una valutazione dello scenario che si sta creando prima di eseguire manovre diagnostiche più invasive. Ecco. Professore, quindi, ma noi come facciamo a sapere se abbiamo dentro il nostro stomaco abita l'Helicobacter pylori? Ci sono dei sintomi? Quali sono i segnali che fanno sì che il medico ci prescriva un esame? Guardi, io volevo fare una considerazione di questo tipo perché è importante. In Italia oggi il 35 circa 40% di chi sta bene alberga nel suo stomaco l'Helicobacter pylori. Dunque, il problema che, di cui stiamo discutendo è estremamente diffuso. Solo un sottogruppo dei pazienti che hanno l'infezione devono essere sottoposti a gastroscopia e sono quelli che appunto hanno cosiddetti fattori di rischio. Alcuni li abbiamo considerati prima, l'uso di aspirina o di FANS, altri sono la precedente diagnosi di ulcera gastrica o duodenale, dunque il paziente potrebbe essere di nuovo a rischio di ricaduta, sì. la presenza di anemia, la presenza di sangue nelle feci, questo è un discorso molto importante, spesso trascuriamo di dare un'occhiata se le nostre feci sono scure, nere, voglio dire, o meno. E l'altra alternativa è l'uso concomitante, come può succedere, di cortisonici o di farmaci antiaggreganti, oggi sempre più diffusi. Quindi, professore, è obbligatorio effettuare una gastroscopia ed andare a guardare non solo la presenza di Helicobacter, ma le eventuali lesioni gastriche che possano aver indotto questi problemi. Elisabetta ci chiama da Cagliari. Buongiorno, Elisabetta. Buongiorno, buongiorno. Volevo fare una domanda al professore. Sì. Allora, io ho fatto due volte la gastroscopia e per due volte è risultato positivo il batterio, il Helicobacter pyloris. Sì. Ho fatto per due volte la terapia antibiotica e non siamo riusciti a debellarlo. Quindi il medico mi ha consigliato di fare l'antibiogramma, una cultura del batterio per vedere che tipo di carica batterica avesse, per fare una cura mirata, sì, da quello che ho capito. Ho fatto questo tipo di esame, ma il risultato è negativo, perché mi è stato detto, in poche parole, che la carica batterica è talmente bassa che è risultato negativo. Quindi sì, io sono così spaesata, cioè non mi hanno saputo dire quindi che cosa devo fare e per debellare l'Helicobacter pylori. Ma il professor Koch lo sa. Professore, Elisabetta, mi dica se l'hanno trovato lesioni nello stomaco. No, assolutamente. Ulcera gastrica o ulcera duodenale? Nessuna lesione, prof. No. Poi lasci perdere le sue Helicobacter, lasci lì tranquilla a dormire, che le fa compagnia, Elisabetta. Non si mette a fare altri antibiotici. Vero? Io premetto che non ho nessun problema, solo in autunno un po' di crampi abbastanza leggeri. Ma non sento altri, non ho altri problemi, quindi cosa devo fare? Continuare così? Non si preoccupi, lo lasci dormire tranquillamente l'Helicobacter, non faccia altri cicli di antibiotici. Si faccia, si porti in vacanza su Helicobacter pylori e insomma una convivenza serena. È una convivenza positiva, sa, ci conviviamo tutti, se con non... tanti batteri e tanti virus. Ecco, se non fa danni lasciamolo lì. Francesco ci chiama da Bari. Pronto? Francesco, buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno. Eccoci qua. E in pratica io convivo da 25 anni con questo disturbo sotto lo sterno, proprio quando finisce la gabbia toracica. Dopo pranzo, dopo 4-5 ore, quando finisce la digestione forse, o la notte, ho sempre, adesso meno perché ho imparato a evitare i cibi che mi fanno male, tipo zuppe, tipo agrumi. Senta però, Francesco, le orecchiette le mangiano? Le orecchiette si le mangiano? Certo. Non credo che peggiorino le orecchiette. Anzi, però anzi, bene sicuro, sono quasi terapeutiche. Ha fatto degli esami, Francesco? Gli esami mi avevano prescritto parecchi anni fa un'ulcera duodenale. Quindi lei... Sì, in pratica convivo con questo problema quando so che vado a una festa, devo a pranzo d'amici, devo un po' abusare, prendo una pastiglia che mi permetta, diciamo, di tamponare un po' la situazione. Professor Koch, un consiglio per chiudere questa trasmissione rispondendo a Francesco? Sì, il consiglio è, in realtà, una volta chiarita l'ulcera duodenale, si ricordi, Francesco, di chiarire per bene se ha fatto allora se era positivo l'Helicobacter e se ha fatto eradicazione. Ulcera uguale eradicazione dell'Helicobacter, questo è molto importante. Penso che si tratti, che si stia convolando a nozze d'argento verso un disturbo di motilità intestinale che lo attanaglia. Io consiglierei aumentare enormemente le attività fisiche, le famose 3 ore settimanali, e di utilizzare farmaci, appunto, come vedo già sta facendo, al bisogno, cioè o di tamponamento della secrezione acida o di miglioramento della motilità intestinale gastrica, mi scusi. Professor Koch, grazie. Non ci ha messo in dieta in bianco, questo mi piace molto. Ci ha rassicurato però le con la verdura le abbiamo ammesse. Ah certo, ci ha rassicurato sull'Helicobacter, se non fa danni non provoca lesione, possiamo pensare di continuare. Ne produce, la verità è che ne produce in un sottogruppo di popolazione piuttosto ridotto. Quindi una puntata assolutamente tranquillizzante, ma soprattutto ricca di consigli e di chiarimenti. Professor Koch, grazie. La ringrazio io, Nicoletta. Un saluto a tutte le ascoltatrici ed ascoltatori. Buona giornata, professor Koch. Buona giornata a voi che ci avete seguito. Se domani tornate, io sono qui che vi aspetto alle 11, dopo il GR. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.